Ciao a tutti e benvenuti in Xpodding, il podcast che trovate su xpodding.blogspot.com, dedicato alla formazione e all'informazione su temi di informatica, con particolare riferimento alla tipografia e all'editoria in genere. Io sono Aldo, l'autore di questo podcast, e vi ringrazio per averlo scaricato e spero per volerlo ascoltare fino alla fine. Sono un grafico impiegato in una grande tipografia del palermitano. Faccio questo mestiere da non molti anni, ma penso di aver rapidamente accumulato una esperienza che mi consente di avviare una condivisione di idee. E questo è soprattutto lo scopo del podcast, quello appunto di dare agli altri, dare a quante più persone possa io raggiungere con questo podcast, dare queste informazioni che io credo utili nel lavoro di tutti i giorni. Il podcast ha un nome, Xpodding, che sicuramente potrà essere discutibile per altri, ma per me è stato molto bello averlo trovato, e vuol dire podcast incrociato. Non mi fermerò soltanto su tematiche inerenti alla tipografia e l'editoria in genere, ma cercherò di spaziare anche su altri argomenti che a me stanno a cuore e che spero voi condividiate. Ad esempio, a me piace moltissimo un programma come PGP, è un programma che serve a crittografare i propri dati personali. Penso di aver accumulato una piccola esperienza che però posso condividere con tutti voi. Ho anche un sito su questo argomento che trovate su www.webalice.it/aldolat. Un sito che, devo dire, nonostante la settorialità dell'argomento, riceve discrete visite ogni mese. Diciamo che non tutti i giorni ha delle visite, ma quando qualcuno arriva e si ferma su questo sito, vedo che le visite sono abbastanza numerose, e di questo ringrazio pubblicamente tutti i visitatori. Altre mie passioni sono gli scacchi, come anche lo stesso computer, l'informatica in genere, con i software particolari che utilizzo quotidianamente. Ecco, credo che durante le varie puntate del podcast io parlerò quindi non soltanto appunto della tipografia e di tecniche tipografiche, ma anche di questi software, nella speranza che possano interessare tutti voi. Realizzare un podcast è senz'altro un'attività per me divertente, ma anche impegnativa. Sono arrivato a questa decisione dopo essermi preparato un pochettino sull'audio, sui microfoni, su ciò che serve per la processazione della voce, e sono ancora molto, agli inizi. Sicuramente andrò, studiando varie tecniche per migliorare sempre di più la mia voce. Utilizzo ad esempio in questo momento un microfono da cravatta, viene chiamato, con la sua spugnetta, il suo piccolo amplificatore, con una batteria collegato alla mia scheda audio attraverso una unità esterna. Utilizzo una scheda Audigy Sound Blaster con una scatola esterna con tutti i connettori, che mi consente di ridurre il fruscio praticamente a zero. Vedo che quando non parlo il segnale è veramente assente, e questa è già una buona cosa. In futuro, quando spero questo podcast avrà un suo discreto successo, io ho intenzione di comprare un sistema più adeguato per la voce, per la registrazione della voce. Ho intenzione di acquistare un microfono, già conosco il modello che vorrei acquistare, è un Behringer B1, molto adatto per la voce popolare tra i podcaster, collegato ad un mixer, sempre della Behringer, UB802, che mi consente di dare anche l'alimentazione Phantom per il microfono, e il mixer collegato ad un compressore sempre della Behringer. Ho ascoltato qualche podcast, ad esempio uno molto, per me molto interessante, quello di Valerio Di Giampietro, che ringrazio adesso, diciamo, di fronte a tutti, perché mi ha dato molti suggerimenti con il suo podcast dedicato al fatto che lui, a come lui ha realizzato il suo podcast. Mi ha dato tanti suggerimenti, mi è piaciuto moltissimo il timbro della voce. E per questo ho scelto questi strumenti. Mi piacerebbe arrivare alla sua professionalità con cui registra il suo podcast. Per adesso mi accontento di questo, chiedo anche a voi di accontentarvi di questo, e per ora di questo piccolo microfonino e insomma del modo con cui sto registrando questo podcast. Ecco, dicevo, realizzare un podcast è senz'altro un'attività divertente, impegnativa. Bisogna raccogliere gli argomenti che faranno da base per la registrazione. E quindi stare attenti un po' a tutte le varie situazioni che in tipografia possono essere da stimolo per la registrazione del podcast. Ultimamente mi sono attrezzato di block notes accanto alla mia tavoletta grafica in tipografia e non appena io trovo un argomento interessante me l'appunto e lo tengo pronto per la prossima puntata del podcast. Bisogna, ecco, raccogliere gli argomenti ma anche pensarli. Non basta semplicemente raccoglierli e dirli ed è finita lì. Ma secondo una mia formazione personale, credo che quello che viene detto debba essere soprattutto pensato, specie forse in questo campo dove diciamo, ci dedichiamo alla formazione di chi ci ascolta. Chiaramente non ho alcuna intenzione di fare il professore, la mia, ripeto, torno a ripetere di nuovo, è soltanto una comunicazione di esperienze e di piccole conoscenze che vengo ad acquisire, in modo da poterle trasmettere anche a voi. Perché questo podcast, oltre chiaramente alla mia esigenza di comunicare con tutti voi e dirvi queste cose che registro, non mi risulta che esista un podcast sull'argomento della tipografia e quindi dei consigli sulla tipografia digitale, diciamo così per intenderci. Anzi, vi chiedo di avvisarmi se esiste, se esiste questo podcast. Sarei molto, molto lieto di iscrivermi. E vi comunico adesso, se volete scrivermi, la mia email aldolat@gmail, per l'esattezza, gmail.com. Io direi, per ora chiudiamo qui le nostre presentazioni e passiamo all'argomento unico di questo podcast. Io credo che in ogni podcast affronterò non più di tre argomenti, non voglio fare dei podcast lunghi, in modo che lo scaricamento non sia eccessivo, anche perché i server che sto utilizzando per tenere i miei podcast sono per ora gratuiti. Credo che in seguito seguirò il consiglio di Valerio nell'utilizzo di Libsyn come server per il mio podcast. Passiamo direttamente al nostro suggerimento. E il suggerimento che vi do riguarda un argomento molto frequente nelle nostre tipografie. Il cliente ci porta delle immagini da stampare appunto in quadricromia. E queste immagini sono al 99%, vi assicuro, e chi fa questo mestiere me ne dà ragione, sono in RGB. Noi in Photoshop possiamo direttamente portare queste immagini in quadricromia, ma a volte ci sono dei problemi. Facciamo conto che questa immagine sia un'immagine di testo, per esempio il cliente ha lavorato in Word o in Publisher, ha portato questa immagine come JPEG, chiaramente JPEG in RGB, e il testo, che dovrebbe essere nero, una volta portata l'immagine in quadricromia, non si trova solo sul canale del nero, ma in tutti e quattro i canali. E questo è un dramma. Non diciamolo al tipografo, non chiediamo al tipografo di stampare questa immagine perché altrimenti ci ucciderebbe. E noi dobbiamo essere in grado di portare questa immagine, o meglio, il testo nero dell'immagine, soltanto sul canale del nero. Come fare? In Photoshop selezioniamo tutta l'immagine, una volta che questa è stata portata in quadricromia, e deselezioniamo quelle parti di testo che non sono nere. Facciamo conto che il foglio, diciamo l'immagine, sia con fondo bianco, perché se non ha il fondo bianco, chiaramente questo consiglio deve essere seguito secondo un altro metodo. Facciamo conto che il foglio sia tutto bianco, c'è il testo nero e alcuni titoli a colori. Selezioniamo tutto il testo nero o tutta l'immagine, poi deselezioniamo, sottraiamo da questa selezione totale solo le parti colorate e apriamo il menu tonalità saturazione. Possiamo fare Ctrl-U o direttamente dai menu di Photoshop. Selezioniamo la casella di testo colorizza, colora l'immagine, e portiamo lo slider della saturazione a 0. Diamo OK e vediamo che tutto il testo che era stato selezionato nero è stato portato soltanto sul canale del nero. Già di per sé l'operazione è splendida, abbiamo fatto il 99% delle operazioni. Per affinare ancora di più il risultato, zoomare sul testo e aprire i livelli. Con il contagoccia andiamo sul testo nero e vediamo che il testo non è al 100% di nero. Noi vogliamo che la lastra sia al 100% di nero, quindi non testo retinato, e vediamo che il testo appunto è circa al 98%. Portiamo allora lo slider delle ombre, quello che si trova più a sinistra, nelle due strisce, diciamo così, nei due slide che si trovano, ce n'è quella in alto, portiamo lo slider del nero un pochettino verso destra, verso destra, e vediamo che il testo che era al 98% diventerà al 100%. Una volta fatto questo diamo ok e il testo sarà totalmente sul canale del nero. Possiamo infine dare un ultimo ritocco che vi consiglio di fare sul colore, ad esempio sui rossi, se quei testi, quel titolo, non so, quel sottotitolo erano fatti in rosso o in verde che sia, di saturare un po' di più il colore, perché portando dei RGB in quadricromia un po', proprio perché per la differenza di spazio colore, i colori non sono pieni, quindi apriamo i livelli e saturiamo un pochettino questi colori. Questo credo che sia un suggerimento molto utile, ho voluto iniziare proprio con questo, che è uno dei più semplici per me da realizzare, molto però utile e frequente in tipografia. Per oggi concludiamo qui, quella che avete ascoltato è stata semplicemente una puntata di conoscenza e soprattutto di riscaldamento per testare un po' il sistema che sto usando. Mi scuso se ci sono state imperfezioni, ma considerate anche che questo podcast è realizzato in proprio e con i poveri strumenti di cui dispongo. Vi chiedo di collegarvi al blog xpodding.blogspot.com per inserire i vostri commenti, anche negativi, o se preferite potete anche scrivermi a aldolat@gmail.com. Nel blog trovate l'introduzione a questo podcast e gli eventuali link di siti di cui parlerò di volta in volta nelle trasmissioni. La musica che state ascoltando e che ci ha accompagnati è tratta da un sito garageband.com, scritto garageband.com, dove potete liberamente e legalmente scaricare musica di alta qualità e sicuramente musica migliore di molte altre musiche vendute commercialmente protette dai diritti della SIAE. Musica davvero eccezionale per tutti i gusti, si va dal rap al rock al heavy metal alla classica, ce n'è di per tutti i gusti. Troverete sicuramente la musica che fa per voi. Coloro che realizzano questa musica e la condividono sono sotto la licenza Creative Commons. È una licenza particolare che ci consente di poter utilizzare questa musica liberamente, ma non ha scopi commerciali, almeno se così hanno deciso i loro autori. Possono eventualmente anche decidere di darla per scopi commerciali, anche per scopi commerciali, e quindi diventa di pubblico dominio. Il brano che ascoltate è di Dave Mason e si intitola Lazy Bones. Vi lascio infine al brano musicale che chiude questa prima trasmissione, il numero 0 di Xpodding. vi lascio a questo brano musicale dal titolo Hurricane Uragano della Scott Waze Band, un brano dedicato, come l'autore stesso afferma, alle persone che hanno sofferto per l'uragano Katrina nel 2005. Spero di esservi stato utile e vi invito a inviarmi commenti, suggerimenti e critiche all'indirizzo che vi ho indicato prima, aldolat@gmail.com. A risentirci a tra circa 15 giorni. Ciao! Let's do it. Nothing left but this clothes on my back. Got nothing left but this clothes on my back. Help me, oh, won't you help me? I think the world is coming to an end. Water all around as the living.